La direttiva Barnier è una direttiva che tende a creare delle regole comuni a livello europeo per quanto riguarda la gestione collettiva dei diritti d'autore. Gestione collettiva dei diritti d'autore, per dare una parola chiave per capire di cosa stiamo parlando, è SIAE per l'Italia. In Italia l'unica società che si occupa di questa attività, cioè la gestione collettiva dei diritti d'autore, l'intermediazione dei diritti d'autore, è appunto la SIAE. In tutti gli stati membri dell'Unione Europea ci sono enti che si occupano dell'attività che fa la SIAE in Italia, però appunto, essendo l'Unione Europea un agglomerato di stati che hanno una storia giuridica non sempre lineare e uguale, allora ogni tanto fa delle direttive che servono appunto a rendere omogeneo un certo tipo di settore, un certo tipo di normativa. La direttiva Barnier è una direttiva che è stata approvata nel febbraio del 2014, quindi ormai 2 anni e mezzo fa, e aveva l'obiettivo di porre delle norme comuni, dei criteri comuni che tutti gli stati membri dell'Unione Europea dovevano adottare nelle loro normative interne. Succede sempre quando l'Unione Europea emette una direttiva che stabilisce un periodo, un lasso di tempo più o meno ampio nel quale gli stati membri, cioè i legislatori interni dei vari stati, devono adeguare le loro normative, mettere dei decreti attuativi, delle leggi interne per poter appunto allinearsi con i principi posti dalla direttiva. La direttiva Barnier dava tempo circa 2 anni e 3 mesi, perché è stata emessa appunto a febbraio 2014 e dava come scadenza 10 aprile 2016, quindi pochi mesi fa, e in questi 2 anni e 3 mesi il legislatore italiano avrebbe dovuto attivarsi per fare una, diciamo, legge, un decreto o comunque una nuova normativa che riformasse l'attività della SIAE, e questa normativa non si è vista. Il 28 luglio scorso però, come dire, il Parlamento ha autorizzato una legge delega per il governo, giusto? Esatto, allora, quindi comunque già fuori scadenza, perché se la scadenza era il 10 di aprile, capisci che il 28 di luglio è già abbastanza in ritardo, però su questo penso che su questi mesi di ritardo l'Unione Europea tendenzialmente chiuderà un occhio, non avvierà una procedura di infrazione. Però questa legge delega è appunto una legge delega, non è la normativa vera e propria, cioè la legge delega è una legge anche lì di principio con cui il Parlamento stabilisce e autorizza il governo, diciamo, a fare la normativa di dettaglio, a fare la vera e propria legge che dovrà intervenire sul sistema SIAE. Questa legge non si è ancora vista, è vero che poi il 28 luglio è sostanzialmente era l'altro ieri, perché poi passa di mezzo agosto, poi adesso il Parlamento e il governo hanno forse dei problemi un po' più urgenti, un po' più seri di cui occuparsi, però non si sa bene quando riusciremo a vedere una vera riforma del sistema SIAE, del sistema della gestione dei diritti d'autore, gestione collettiva dei diritti d'autore in Italia. Stiamo aspettando. Qualcuno sospetta che questo ritardo sia colpevole perché l'Italia, se non sbaglio, insieme alla Repubblica Ceca è l'unico paese europeo dove vige un sistema di monopolio, appunto. In cui vige un sistema di monopolio legale, cioè di un monopolio che ha un suo fondamento espresso in una norma di legge. Noi abbiamo questo famoso articolo 180 della legge sul diritto d'autore italiano, che stabilisce appunto che l'attività di gestione collettiva dei diritti può essere svolta in via esclusiva dalla SIAE. Quindi, ciò nonostante, anche negli altri paesi europei, in buona parte degli altri paesi europei, c'è un unico ente per ogni Stato. Il problema è che negli altri paesi l'unico ente è tale perché il mercato ha fatto sì che se ne formasse uno solo. Qua invece ne abbiamo una norma che imbriglia il mercato e non permette ad altri soggetti di entrare in questa attività, perché andrebbe a violare questa forma di esclusiva, di cosiddetto poi volgarmente monopolio della SIAE. Però attenzione, sottolineo che la direttiva europea, la direttiva Barnier, non si è espressa fino al punto di dire togliamo i monopoli legali, cioè è stata abbastanza generica su questo aspetto, non è stata sufficientemente coraggioso il legislatore europeo. Quindi di fatto non c'è un'indicazione chiara affinché il governo italiano tolga questo famoso monopolio. Quindi tutti sperano che lo faccia, ma non lo sapremo fino a quando non avremo questa famosa normativa di dettaglio, quella la riforma vera e propria, che sarà sostanzialmente un decreto legislativo. Quindi stiamo sperando che l'abbiano capita la lezione, però non è così chiaro, non è così certo. A questo punto però forse vale la pena entrare un po' nei contenuti di questa direttiva per capire un po', insomma, cosa prevede, perché una questione è la corresponsione dei diritti, insomma del pagamento, insomma dei compensi agli artisti. La direttiva chiede di velocizzarli, no? Rispetto anche ai tempi che ha la SIAE oggi. Quello è un esempio, nel senso che se in altri paesi europei gli autori riescono a vedere i loro soldi entro 6 mesi, al massimo un anno, in Italia poi, benché la SIAE dichiari che il limite è di 12-18 mesi, poi di fatto diventano sempre 2 anni o 2 anni e mezzo, capisci che questo svantaggia palesemente un autore italiano rispetto a un suo omologo francese inglese o tedesco, perché semplicemente prende i soldi più in ritardo, e capisci che insomma prendere dei soldi per il proprio lavoro con 2 anni di ritardo, 2 anni e mezzo di ritardo, non solo danneggia appunto l'autore che deve prendere i soldi, ma avvantaggia in modo improprio l'ente che si tiene in mano questi soldi, perché se vado in banca a chiedere un mutuo e la banca mi mette un tasso di interesse del 2,5% o 3% adesso, vuol dire che il tempo ha un costo, il fatto di potersi tenere in mano dei soldi per nome per conto di qualcun altro crea un vantaggio. Certo, sono gli interessi, insomma. Capisci? Quindi non c'è solo il fatto che a me i soldi arrivano tardi, ma c'è il fatto che io non posso maturare degli interessi, e quegli interessi invece li matura la SIAE, perché comunque quando avendoli in mano questi soldi, anche con un tasso di interesse basso, però lo matura e poi non lo gira all'autore, perché poi viene girata la somma pari pari. Le procedure di alcuni enti sono talmente lente, burocratizzate, questo è il caso della SIAE, per cui i soldi non si sbloccano se non prima di 2 anni e mezzo o via dicendo, e questo crea appunto uno svantaggio, tant'è che l'autore, molti autori italiani, dopo un po' stufi di questa cosa, scocciati da questa situazione, cosa fanno? Non potendo avere un altro ente in Italia che fa questo lavoro, allora vanno e si iscrivono, si cancellano da SIAE e si iscrivono ad un altro ente che sta fuori dall'Italia, quindi alla GEMA, che è quella tedesca, alla PRS, che è quella inglese. Okay. Quindi è una sorta di modo anche per aggirare il monopolio SIAE. Ah sì, questo è sempre esistito, nel senso che in realtà il monopolio è già un monopolio relativo, perché visto i principi del diritto dell'Unione Europea, comunque un cittadino dell'Unione Europea può servirsi della collecting society di qualunque altro stato dell'Unione, quindi comunque l'autore che non fosse contento del servizio di SIAE si può comunque rivolgere alla, fra virgolette, alla SIAE belga, alla SIAE francese, alla SIAE spagnola, alla SIAE inglese, basta essere all'interno dell'Unione Europea e quindi ha comunque gli stessi tipi di garanzie, e quindi comunque già il monopolio a livello europeo era già stato in un certo senso abbattuto, però insomma la speranza era che si potesse abbatterlo anche a livello, diciamo, di normativa, cioè che si togliessero quelle 3 paroline magiche che permettono a SIAE di avvantaggiarsi un po' troppo di questa sua situazione di monopolio. Abbiamo analizzato la situazione dal punto di vista, insomma, degli autori, degli artisti. Vorrei farti una domanda che riguarda invece gli operatori commerciali, coloro che pagano la SIAE per dare vita, insomma, a spettacoli, rappresentazioni, eccetera. Liberalizzando il mercato, come dire, la concorrenza che si potrebbe creare potrebbe portare anche a dei vantaggi agli operatori? Il principio generale del mercato è quello che la concorrenza normalmente permette di diminuire i prezzi e di migliorare i servizi, perché se dei soggetti sono in concorrenza tra loro cercano il più possibile di migliorarsi per accaparrarsi maggiore clientela e maggiore credibilità sul mercato, no? Questo è il principio generale. Non è detto che in questo mercato funzioni così. Alcuni osservatori di questi temi, diciamo, alcuni studiosi di questi temi hanno fatto notare che dove è stata fatta una liberalizzazione, ovvero sui diritti connessi, cioè i diritti degli artisti, interpreti, esecutori e dei produttori discografici, che sono diritti separati rispetto a quelli d'autore, lì è stata fatta una liberalizzazione già 4 anni fa circa, nel 2012, e in realtà alcuni fanno notare che le cose non sono andate proprio così splendidamente, perché la liberalizzazione, come tutte le liberalizzazioni, se non sono fatte con un certo criterio e con sale in zucca, rischiano di creare più confusione della situazione precedente del monopolio, no? Non si sa, è effettivamente un tema molto delicato. Vero è che se mai si prova ad aprire il mercato, mai sapremo come potrà andare se ci fossero più soggetti in gioco. Ci sono realtà come Progetto Control, insomma, che vedono anche dei rischi della direttiva Barnier, in particolare che la liberalizzazione porti a una privatizzazione, insomma, della tutela del diritto d'autore. C'è questo rischio? Certo, è ovvio, sì, nel senso che è così. Adesso abbiamo la SIAE, che di fatto è un ibrido, in realtà è un ente pubblico economico, viene definito dalla legge italiana, che è una strana forma di ente pubblico, che però in realtà è comunque partecipato da soggetti privati, che sono gli autori e gli editori, che si possono iscrivere, quindi votano in un'assemblea, quindi ha dei meccanismi di funzionamento tipici di un'associazione, quindi un ente privato, ma comunque ha i meccanismi tipici della burocrazia italiana, no? Quindi di un ente pubblico, con tutti i pro e contro. I pro sono il fatto che comunque, essendo pubblico, sono, diciamo, sottoposti a un controllo, fra virgolette, politico, no? con il pro e contro di questo. I pro sono che, essendo un ente pubblico, ha maggiori obblighi di trasparenza, di gestire la macchina in un certo modo, mentre se lasciamo in mano delle aziende private, ovviamente quelle stanno delle regole, che sono le regole del mercato, e le regole del mercato a volte portano a apertura, innovazione, come mi auguro che succeda, a volte purtroppo possono portare a ulteriori monopoli, a concentramento di capitali, e quindi questo è un po' il tema che sollevano i ragazzi di Control, no? Che ne fanno anche una questione, diciamo, politica ed ideologica, e non vedo tante strade. In tanti altri paesi, gli Stati Uniti ad esempio, e Inghilterra, le società di collecting sono delle società private, totalmente private, che ragionano con un'ottica contrattuale, cioè io autore mi rivolgo a te, tu mi dici che servizi mi offri, contrattiamo e io accetto questo tuo, quando non sono più contento uno dei due se ne va.